Un ciao a tutti da parte di Max Macchia, che ritorna sulle frequenze di Radio Città Fujiko per 451 frammenti sonori, gemello di 451 intersezioni, curato ovviamente da Eliseo Scarpa. E questa sera da queste parti Library 2, quindi riprenderemo una questione che è stata aperta l'anno scorso, ma poi di fatto insomma tante volte sono passate dentro 451 musiche e sonorizzazioni, soprattutto legate a immagini sia cinematografiche ma anche spaziali, oppure a temi specifici o molto larghi. Quindi la Library insomma di fatto è tra le musiche che più passano dentro 451 frammenti sonori, seppur appunto l'anno scorso abbiamo dedicato una prima parte in maniera specifica alla Library, un po' in generale tra America, Inghilterra e qualche pizzico di Italia. Italia tra l'altro che questa settimana, nello specifico Radio Città Fujiko, festeggia i 70 anni dalla liberazione, dalla immondizia nazifascista, ma come dire, tutta la settimana è dedicata appunto al festeggiamento di questi 70 anni appunto di liberazione tra molte virgolette, e un po' associandomi anche al mio compagno di strada Eliseo Scarpa, non ho preparato una faccenda specifica, ma di fatto insomma tentiamo da un po' di tempo a questa parte di suonare, di proporre e di creare dei ponti legati a un linguaggio liberale, a musiche liberate, linguaggio che quindi diventa anche politico, e chiaramente quindi non è che ci sentiamo particolarmente, parlo anche per lui una volta tanto, non è che ci sentiamo particolarmente insomma dentro la specificità del 25, seppur appunto data importante come le date, insomma è bene ricordare il discorso della memoria, è bene sottolinearlo, ma appunto pensiamo che poi la memoria debba essere declinata nel presente e magari con prospettive anche future, se non addirittura futuribili. Max Macchia quindi vi presenta Library 2 questa sera, questa notte, e 451 frammenti sonori .noblogs.org per chi invece si ascolta dal blog appunto curato da Lorenzo Albano, così insomma li ho citati tutti, la squadra, poi in realtà ci sono anche vari affiliati dentro 451, ma questi tre insomma rimangono quelli un po' più visibili e ascoltabili forse, e perché di fatto insomma sia io che Eliseo insomma siamo sulle onde, e invece per quanto riguarda appunto il blog e quindi il video trovate Lorenzo Albano che cura la faccenda. E Library significa musiche che venivano commissionate e che paradossalmente riuscivano a liberarsi, a emanciparsi da molti anche degli stereotipi che venivano richiesti per un LP per commercializzare appunto quello. Paradossale che musiche fatte su commissione potessero risultare così libere e a distanza di tanti anni riuscissero insomma ancora a avere un immaginario molto profondo, come ascolteremo questa sera, ma di fatto insomma molti di voi sapranno che varie formazioni nuove, dall'etichetta Ghost Box a cose che riguardano sia gli stereo laboratori che altre faccende, hanno e ancora fanno insomma grande come immaginario, come senso di disegno generale la Library, considerata poi tra l'altro tale da qualche tempo a questa parte, con anche un recupero dei vinili veramente a prezzi incredibili, gli originali, qualche ristampa si vede finalmente. La scorsa settimana tra l'altro mettevamo anche feedback che non è Library, comunque di fatto c'entra, anche anche perché questa sera inizieremo con Egisto Macchi, quindi riprendendo un po' le redini della scorsa trasmissione, vagamente dedicata a Nuova Consonanza, Egisto Macchi dentro appunto quel collettivo incredibile di musiche sperimentali, avventurose, fantascientifiche anche per tanti versi. Egisto Macchi che, come tra l'altro il suo amico, collega, compagno Ennio Morricone, ha fatto varie sonorizzazioni. Andiamo a prenderlo da una delle sonorizzazioni più sicuramente interessanti in termini di risultati musicali, ma d'altronde veramente Egisto Macchi probabilmente bisognerebbe ascoltare tutto quello che ha fatto. Voix del 75, tra l'altro edito da Gemelli, quindi etichetta molto legata alla library dell'epoca e quindi a tutto il mondo delle sonorizzazioni. Questo è appunto dedicato alle voci, un tema insomma che ovviamente non può che essere ampio, e Egisto Macchi si è molto insomma divertito, anche se le musiche insomma sono per alcuni aspetti tutt'altro che divertenti, ma senz'altro insomma c'è un lavoro di ricerca che ha espresso appieno la creatività di Macchi, come tra l'altro in dischi eccezionali come I Futuribili, Bioritmi, Città Notte, ma anche tematiche come Fauna Marina, Adagi Allegri, addirittura un disco dedicato a Buster Keaton per un'antologia musicale ispirata al cinema muto. Quindi musiche che, e qua bisognerebbe anche citare Bill Frisell con quei due splendidi lavori che dedicava a Buster Keaton, proprio quest'idea, no? Anche molto molto generale, no? Di quello che poteva essere appunto la commissione, e prende poi un piede con sperimentazioni e con un senso della molto fantasioso di quello che è un tema in questo caso appunto dedicato alle voci. Egisto Macchi appunto 1975, 451 frammenti sonori, Library 2. Tornati in diretta per appunto questa Library 2. Abbiamo sentito Macchi, Gisto Macchi, in nuova consonanza, in questo caso una library dedicata alla voce Voix e della Gemelli del 1975, con una tromba che poteva anche essere quella di Ennio Morricone, probabilmente, visto che era il trombettista effettato poi a dei livelli incredibili di nuova consonanza, quindi può essere, visto che abbiamo sentito per un attimo una tromba che poteva ricordare quella di Morricone, soprattutto utilizzata appunto in maniera effettata in nuova consonanza. E particolarità della library è anche questa, proprio il fatto che molte cose insomma si perdano o vengano, come dire, celate di fatto, perché per problemi di edizioni, perché il nome era legato a una certa etichetta, quindi poi magari appunto nel lavorare con altri editori di fatto insomma si dovevano inventare dei soprannomi, dei moniker, e appunto molti musicisti insomma venivano così nascosti dentro ad esempio nomi e serie come Apri l'Orchestra, ad esempio in sottofondo ne abbiamo una, tra l'altro meravigliosa, il numero 5, però noi andiamo a prendere da una più successiva, insomma numero 12, da parte di Awake, che altro che non è che Oronzo De Filippi, nome ovviamente conosciutissimo, una star insomma del firmamento delle musiche pop, no? E no, a parte gli scherzi, nomi che veramente raccolgono una memoria veramente molto ristretta da parte di pochi che si accorsero già all'epoca, ma sono veramente pochi, contati sulle dita di una mano probabilmente, chi si accorse insomma che queste musiche avevano una capacità di sperimentare che altrove insomma era difficile trovarla, se non dentro le contemporanee e le musiche jazz più avanzate. Ma qua c'era anche la particolarità insomma di creare poi un suono astratto appunto partendo da un tema, e quindi diventavano di fatto delle opere molto originali, ecco, già in partenza. E Awake, Oronzo De Filippi lavora e farà un lavoro eccezionale, non soltanto come Apri l'Orchestra per quanto riguarda il volume 12 come Awake, ma anche in proprio con due o tre pezzi veramente incredibili e vari anche qua moniker, dove si sperimenta veramente dalle elettroniche azzardate anche per l'epoca, che venivano date dagli studi di registrazione, che all'epoca erano anche decisamente attrezzati, non c'era insomma la pruderia di questo periodo, c'erano anche molto macchinari, c'era anche un ambiente musicale sperimentale generale, insomma se pensiamo che Morricone lavorava per musicare le orchestrazioni di molte musiche leggere, da Mina anche a Domenico Modugno ad esempio, e altri grandi insomma che poi magari appunto sperimentavano, facevano altro, passarono insomma sia dalla Rai che dai vari studi di registrazione. Poi c'era la faccenda insomma dello studio di fonologia di Milano, di Berio, quindi le prime apparecchie rotture elettroniche, e a Pisa con Grossi, c'era insomma un ambiente veramente molto stimolante, sia molto conosciuto, sempre in ambito di classica contemporanea con Luciano Berio, un po' meno con Grossi, ma comunque fondamentale per la computer music, e poi tutto questo questo marasma, si potrebbe dire, di sperimentazioni, di avventure sonore che si ritrovano appunto dentro gli apri l'orchestra, ma dentro lavori come quelli di Egisto Macchi, che sentiremo insomma da altri personaggi che abbiamo ascoltato anche nella prima parte della Library di 451 frammenti sonori. Tra l'altro rimando anche per l'ascolto proprio a quella, anche se quella magari era tendenzialmente più sul veramente lo spot e l'immaginario anche pubblicitario in generis, no? non tutta, però buona parte, e in inglesi in quel senso lì saranno insomma forse più portati, forse anche per un capitalismo e per un senso del business e molto più, come dire, a portata, e invece magari gli italiani, soprattutto in quegli anni, anni di grande anche contestazione e di grande anche fantasia che non aveva preso il potere, ma di fatto insomma esisteva a livello appunto di contropotere, di scontro anche tante volte, oppure di elemento che alterava poi anche le realtà, quelle più così quotidiane. Infatti se pensiamo anche a sonorizzazioni ad esempio legate all'industria, ma anche la società in generale, pensiamo ad esempio a quel gioiello che è Società Malata, per dire insomma anche un lavoro di ristampa proprio di questi ultimi mesi, e prendendo appunto Ronzo De Filippi con Away che apre l'orchestra 12, ci andiamo a ascoltare quello che è un lavoro dedicato fondamentalmente, io nel frattempo giracchio i vari appunti perché veramente ci si perde dentro dentro tutte le varie appunto sonorizzazioni legate a quello o quell'altro tema. Non ha un tema particolare questo Apri l'orchestra volume 12, forse insomma legato alla spazializzazione in generale e a quello che è la cultura moderna, c'è anche un pezzo appunto, e quindi anche quell'aspetto sociale che prima citavo in Società Malata ad esempio, un pezzo ad esempio che apre il disco si chiama Squallore, e un altro pezzo che possiamo trovare, Vocazione Remota o Sotto la Superficie, Cosmo Magia, Computer. Noi appunto andiamo a sentire un po' di pezzi da questo April 12, April Orchestra 12 da parte di Awake Moniker, che nasconde in realtà Oronzo De Filippi.

Lavoro eccezionale quello di Awake Ronzo De Filippi per Aprile Orchestra volume 12, un lavoro che lavora sulla spazializzazione, ma la spazializzazione in termini sociali, in termini di quello che è lo spazio appunto legato alla società, addirittura al sistema. E prima citavamo insomma un pezzo d'apertura, ad esempio Squallore, e come abbiamo ascoltato anche negli ultimi due frammenti sonori, perdonatemi insomma l'autocitazione, Ronzo De Filippi andava a indagare addirittura quella che era la computer music, ma non solo come musica, anche come in termini sociali, quello che stava significando negli anni 70, nei primi anni 70, un immaginario digitale, un immaginario computeristico che era ancora insomma da lì a che diventasse di fatto di massa, ne sarebbe passato anche un bel po' di tempo, insomma quasi 20 anni per l'esplosione completa. Quindi era un immaginario anche esotico, se vogliamo, e sempre questa specie di esotismo che però tante volte si declina in maniera magari alternativa, se non addirittura proprio alterata, come abbiamo anche ascoltato, quindi con sì impeto futuristico, ma anche con quel senso anche vagamente angoscioso della macchina e di quello insomma che potrebbe essere anche come inteso come macchina sociale, quindi in senso più largo. E d'altronde anche qua insomma si può pescare direttamente dall'avanguardia storica, dagli stessi futuristi, e da certe frange insomma decisamente inquiete, quasi irregolari dentro il movimento futurista, che già insomma angosciati dalla macchina, e soprattutto dentro l'angoscia sistemica della macchina capitalista. Quindi in questo senso poi la rottura anche futurista e la grande trade union poi tra futurismo italiano e futurismo russo, ad esempio, proprio la macchina sociale da rompere e da portare insomma in un altrove, in un ignoto anche, che piaceva tanto sia ai futuristi italiani che a quelli russi. E si lancia appunto in questo territorio così articolato nel suo macchinismo anche estremo, con Awake, Apri l'Orchestra volume 12, come d'altronde fanno in maniera anche piuttosto sorprendente, visto che prima accennavamo all'inizio della trasmissione ai vari stereo laboratori che ci sono stati, citando in primis appunto gli stereo Lab Broadcast, sicuramente appartengono a quelli. Alla fine degli anni 90 stampavano proprio due EP per la Duophonic degli Stereolab, e poi sono passati per la Warp Record, tuttora sono con la Warp Record. Sono stati fermi un po' di anni, un po' sul quel pop surreale di Stereolab, forse già con quel disegno in filigrana di Library, che però non era ancora esploso, esploderà non nei primi dischi degli anni zero, ma in quelli dei primi anni 10, ovvero quello con Focus Group, Investigate Witch Cult of the Radio Age, quindi qua già dal titolo insomma un riferimento insomma alla sonorizzazione, in questo caso radiofonica, e poi col bellissimo Barbarian Sound Studio del 2013. E qua ovviamente l'Italia c'entra, come Barbarian ci riporta direttamente a Katy Barbarian, e quindi alla moglie la compagna anche di tanti lavori di Berio, che sperimentava anche con la voce appunto di questa cantante eccezionale. E d'altronde abbiamo iniziato anche questa sera con le voci e le sperimentazioni su queste come tema e come avventura sonora con Egisto Macchi. Broadcast riprendono molto dell'immaginario italiano, citando non soltanto le Barbarian già nel titolo, ma anche Edda Dall'Orso, grande cantante che lavorò tantissimo con Morricone, ça va sans dire, no? Direbbero i francesi, voce che avrete sentito e che tutti, ovviamente in Italia, ma forse anche si potrebbe azzardare anche a dire al mondo, insomma, hanno sentito l'Edda Dall'Orso, poi non sanno magari che è Edda Dall'Orso, ma c'era una Walter West, insomma, la colonna sonora più o meno tutti la conosciamo, o comunque se non la conosciamo direttamente l'abbiamo sentita, sta nel nostro imprinting, è quasi un archetipo musicale del Novecento, dell'immaginario, no? Collettivo. Ed è dell'orso che viene citata direttamente con Edda Burial, addirittura dentro questo disco di Broadcast, ma non solo, vengono proprio citate anche parti orrorifiche, sia a livello di immaginario, che potete vedere anche su insomma le varie insomma faccende internet, video collegate a questo bel disco bellissimo, anzi di Broadcast, ma anche momenti recitati in italiano che qua e là insomma punteggiano questo disco pieno veramente di evocazioni, quasi a voler creare un mondo fantasmatico, a ricreare insomma grandi momenti di evocazione, e anche terrificante, perché no. Ci andiamo appunto ad ascoltare questo Barbarian Sound Studio del 2013 di Broadcast, con pezzi insomma di grande valore, sia in termini musicali, squisitamente musicali, sia in termini appunto di questa sonorizzazione infinita, se vogliamo, che si ha di rimando poi in questi anni, riferendosi ai grandi appunto esploratori che abbiamo ascoltato prima, come Egisto Macchi o Awake, che ascolteremo intervallando anche con faccende un po' più recenti. Broadcast.